Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico, saluto immediatamente Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco. Allora, con te, che fai parte dell'Adico, Associazione Difesa Consumatori di Mestre Venezia, parliamo oggi di quei piccoli incidenti che si hanno, per esempio in questo caso con i vaporetti a Venezia oppure con gli autobus della CTV, perché molte persone si sono rivolte a voi. Sì, diciamo che nel 2016 registriamo un vero e proprio boom di richieste di aiuto. Francesco, non so dirti se nel 2016 si è aumentata, appunto, sono aumentate le problematiche, gli incidenti negli autobus. Noi registriamo comunque un aumento deciso, insomma, delle richieste di risarcimento. Sì. Sicuramente, ecco, molte di queste sono riferite ai mezzi di trasporto veneziani, quindi vaporetti, e soprattutto vaporetti, però anche mezzi pubblici. Però ci arrivano anche richieste, appunto, di mediare per chiedere poi di risarcimenti anche da parte di altre parti del Veneto, della nostra regione. Certo, quindi è un problema che può capitare anche magari per chi prende il tram, che sia a Padova o a Venezia, anche lì possono capitare, ahimè, degli inconvenienti. Sì, allora, da questo punto di vista devo dire che come Adico abbiamo chiesto decine di risarcimenti a suo tempo per cadute proprio sulle rotaie del tram. Sì. In questo caso stiamo parlando invece di incidenti che accadono all'interno proprio dei mezzi. Abbiamo sostanzialmente poi avuto varie tipologie, due in particolare si assomigliano, ovvero una riguarda un mezzo pubblico, per cui dopo una frenata abbastanza importante da parte del conducente, una nostra assistita ha avuto un problema cervicale di notevole entità, abbiamo chiesto appunto il risarcimento. Un'altra persona si è fatta male, un ragazzo straniero si è fatto male dopo che il vaporetto si era scontrato con una bricola, e anche qua siamo andati a chiedere risarcimento e l'assicurazione è andata ad aprire il sinistro, quindi noi speriamo in bene, mentre per una terza persona ci sono state chiuse le porte in faccia, ed è qua che invece noi facciamo un appello affinché vengano riaperte. In questo caso l'incidente è particolare, nel senso che il nostro socio si trovava in vaporetto, per una manovra sbagliata, palesemente sbagliata dall'autista, è stato investito totalmente da proprio una vera e propria secchiata d'acqua, e il computer gli è andato in tilt, per cui un computer da 1800 euro pieno di dati completamente distrutto. Ecco, diciamo che noi andiamo a chiedere un tavolo di confronto con la CTV, ma se ci capiterà anche con altre società di trasporto venete, perché crediamo che comunque le richieste di risarcimento debbano avere delle vie un po' più rapide di quelle che stiamo riscontrando. I tempi sono lunghi, insomma, sono un po' anche di muro contro muro, quando invece in realtà sono risarcimenti richiesti per delle colpe dell'azienda, in questo caso dell'autista, quindi insomma chiediamo un po' di più di collaborazione anche in questo caso. Ecco, poi ovviamente se uno monta in vaporetto con il computer sarebbe bene stesse all'interno e magari non all'esterno, dove è facile che però una secchiata d'acqua arrivi, mi viene da pensare, no? Francesco, hai ragione, infatti diciamo che in linea di massima più di qualcuno ha commentato così questa vicenda, ma noi siamo intervenuti perché in realtà è stato un fatto un po' anomalo. È vero che la persona era seduta dietro al vaporetto, è pur vero che non ha contestato due gocce d'acqua che gli sono arrivate addosso, ma qua stiamo parlando proprio di una manovra sbagliata che ha provocato una vera e propria ondata. Non si è bagnato solo lui, sono bagnati, e questo non è normale, ecco, certo. Questo non è normale. Quindi ecco, l'invito che facciamo anche tramite ovviamente voi, che siete sempre un aiuto prezioso per i consumatori, è quello di non arrendersi nel momento in cui si vuole chiedere un risarcimento. In questo caso, apro una piccola parentesi, perché anche la nostra regione, ma insomma anche tante città d'Italia, vivono situazioni drammatiche dal punto di vista, ad esempio, delle strade. Abbiamo notato come dal punto di vista, appunto, delle persone che si fanno male inciampando in una strada, cadendo con la ruota della bicicletta dentro appunto a una buca, eccetera, le amministrazioni locali fanno molta molta fatica a riconoscere le loro colpe. Certo. Molta fatica. Però ecco, affidandosi ad associazioni come la nostra, sicuramente si può arrivare a ottenere qualcosa. E quindi non demordiamo, se pensiamo di aver ragione, una telefonata all'Adico vi può aiutare. Ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it per cercare anche di far valere i nostri diritti quando questi vengono in qualche modo non considerati, diciamo così. Grazie quindi all'Adico, grazie a te Gianluca, ci ritroviamo non lunedì prossimo perché è festa, ma la settimana prossima. Grazie Francesco, un saluto anche a te. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.